al 7 maggio Palazzo Albergati ospiterà questa mostra importante. Quant'è importante questa mostra e soprattutto parlare di arte attraverso un linguaggio irriverente e controcorrente, come dimostrano e hanno dimostrato questi artisti? In realtà l'irriverenza oramai è così insita nel lavoro degli artisti che è diventata una riflessione. Lo stesso vale per Iago. Tre artisti sono tre monografiche, si parla di Iago, Banksy e TV Boy da una parte, e altri artisti, Delfini del street artist di Bristol, che seguono questa scena dopo l'effetto Banksy, un fenomeno che caratterizza il mondo intero. Cosa accade? Che da una parte vi è la carta, uno strumento estremamente delicato che tende a consumarsi facilmente e è all'aperto, quindi non solo sotto la pioggia, ma anche sotto il vandalismo altrui, e quindi si innesca già di per sé un cortocircuito, perché quell'opera, forse fatta da un vandalo per qualcuno, viene vandalizzata da altri. E d'altra parte, quindi, già di per sé un fenomeno di estrema violenza intellettuale. D'altra parte, invece, abbiamo una realtà estremamente intima che nasce da una delle materie più forti in assoluto, vale a dire il marmo. In Iago, invece, tutto ciò che è sinonimo nel tempo e nella storia di potenza, di rappresentazione del più forte, in questo caso racconta la sua parte più intima, personale, attraverso il battito cardiaco, attraverso The First Baby, la prima scultura inviata in una missione interspaziale, questa piccola opera curata dal capomissione Luca Parmitano, quindi è la volontà di voler narrare un qualcosa di estremamente personale, individuale, attraverso uno degli elementi più duri in assoluto, appunto il marmo. Grazie. Prego.